Questo è un anniversario molto sentito da parte di tutti noi che eravamo in Egitto, in Tunisia o nei paesi che hanno visto le proteste scoppiare nel fine 2010, perché già le prime proteste si sono svolte in Tunisia e poi dopo ci sono state le proteste al Cairo il 25 gennaio, la grande manifestazione a Piazza Tahrir, che poi aveva aperto la strada a 18 giorni di occupazione della piazza, e alla fine del presidente Mubarak, dell'ex presidente Mubarak, che si è dimesso l'11 febbraio del 2011. Purtroppo però da quel giorno le cose sono andate male, nel senso che nel caso egiziano c'è stato un periodo di un anno di governo dei Fratelli Musulmani con l'ex presidente Mohamed Morsi, ma poi il 3 luglio del 2013 c'è stato il colpo di Stato militare che ha riportato l'Egitto indietro nel tempo. Adesso abbiamo un regime militare, il caso Regeni ne è un esempio, perché ci sono continue sparizioni forzate, continui arresti, continue violazioni di diritti umani. Secondo Amnesty sono 60.000 ai prigionieri politici in Egitto, ci sono continue condanne a morte, prima la condanna a morte non veniva eseguita, sono centinaia, più di 1.000 i condannati a morte, e poi evidentemente ci sono ancora casi irrisolti veramente eclatanti, come quello di Patrick Zaki, ma come quello di tanti altri attivisti per i diritti umani che continuano a marcire nelle carceri egiziane. Poi sappiamo quale è stato il risultato delle proteste che c'erano in Siria, in Libia, cioè dei paesi completamente dilaniati, nel caos, dove veramente si è combattuta una guerra per procura, dove erano interessati coinvolti tante potenze straniere. E sappiamo invece che l'unico caso positivo, o comunque che ha avuto un risultato che possiamo considerare come rispondente in parte alle aspettative dei giovani, delle donne, degli operai, dei migranti, dei sostenitori delle squadre di calcio, di tutti coloro che si sono mobilitati nel 2010-2011, la Tunisia, dove si è avviato un discorso di transizione democratica, sono state fatte delle libere elezioni, c'è un presidente eletto che ha avuto un certo seguito durante la campagna elettorale del 2019, una costituzione che è più aperta rispetto ai diritti delle donne, rispetto ai diritti ereditari per le donne, quindi evidentemente un discorso anche di coalizioni e di alleanze e di dialogo tra partiti laici e partiti islamisti che non c'è stata in altri paesi. Quindi luci ed ombre, però soprattutto ombre, in particolare se guardiamo al caso egiziano.